Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui alle 8:19 minuti. Primo marzo. Astronomicamente inizio la primavera, lo sai, anche se poi stagione più avanti, il 21, però. Però oltretutto facciamo felici i nostri ascoltatori veneti. Lo sai che il primo marzo sì, è mercoledì delle ceneri, questo non c'è dubbio, perché andrà liturgico, inizia la quaresima e quindi pentirsi, ricordare che torneremo in polvere e va bene. Però è il Capodanno veneto. Tu sai cos'è il Capodanno veneto? No, ma adesso lo scoprirò. Ecco, il Capodanno veneto, in realtà, fino a che esiste la Repubblica veneziana, cioè fino a quando la Serenissima non è caduta sotto il tallone di Bonaparte, oggi era l'inizio dell'anno, tant'è vero che gennaio e febbraio erano considerati gli ultimi due mesi dell'anno precedente. E questa pensa che è una consuetudine antichissima, cioè dei tutti i popoli dell'area indo-iranica di migliaia e migliaia di anni prima di Cristo. Perché il primo di marzo è l'inizio della stagione della ripresa della natura. E tanto è vero che nei documenti ufficiali, anche del Settecento, della Repubblica Veneta, gennaio e febbraio, invece che gennaio 1703, era gennaio 1702 e si aggiungeva More Veneto, e questo significava che era il penultimo mese dell'anno precedente. Quindi ricordiamo ai nostri amici veneti che oggi è Capodanno, secondo loro, oltre che mercoledì delle ceneri. Però io voglio dirti anche che è San Silvio Martire. È San Silvio Martire, San più altri Silvio quattro Martire. Compagni in Cappadocia, e poi però venerati a Roma, seppelliti a Roma e adesso venerati ad Anversa. Chissà se c'è qualche coincidenza nel fatto che questo San Silvio Martire sulla notizia del closing. Tu che dici? Non lo so. So solo che hanno posticipato il closing di un mese, dicono fine marzo, un mese sarebbe il primo aprile, che sarebbe una fine perfetta per questa storia. Primo aprile. Ideale. Vabbè, però io so che c'è una scommessa tra te, Miazza e Forchielli, vediamo alla fine chi vince in tutto questo. Esatto. Ricordiamo anche nella storia che oggi, nel 1968, avvengono i famosi scontri Valle Giulia di fronte alla Facoltà di Architettura a Roma, con 148 feriti, e ci sono le foto di Giuliano Ferrara, giovanissimo, che incredulo guarda dalla scalinata, da giovane comunista, quello che sta succedendo, dove ad animare la giornata non erano naturalmente i giovani comunisti, e dei giorni in cui poi Pasolini difenderà i poliziotti, il famoso inno proletario al poliziotto e non a chi gli sfascia la testa. E invece, come abbiamo detto ieri, da oggi nel 2002 cominciava solo l'euro e addio alla lira, fine del doppio corso che Berlusconi vorrebbe ripristinare, e tanto per ricordarci però della lira, oggi per esempio nel 76 si riapriva il mercato valutario dei cambi della lira, chiuso per giorni perché cari nostalgici della liretta, tra un prestito e l'altro col cappello in mano per stare in piedi, eravamo anche costretti a chiudere il mercato del cambio perché la lira non reggeva proprio e andava giù. Ecco, per ricordarsi che cos'è stata la lira, tanto per essere precisi. Da cosa cominciamo? Ma intanto qui alle 8:22 minuti diamo il numero di telefono, che è il solito 800 24 00 24, visto che tra poco suona la campanella per molti che vanno a scuola, soprattutto alle elementari. Ma voi, cari ascoltatori, scegliereste di non mandare i vostri figli a scuola, quindi evitando pagelle, colloqui con i professori, in classe, non per non fargli fare niente, bensì per farli studiare a casa con il homeschooling, cioè l'educazione a casa. L'educazione a casa, quindi per poi fargli gli esami, prepararli a casa. Prepararli, o voi genitori o degli insegnanti. Io lo trovo benissimo. lo trovi bellissimo. Io lo trovo molto impegnativo, però sì. Cioè, capisco chi lo fa dicendo io ho una certa sfiducia verso lo Stato che impone il suo modello di educazione. Naturalmente immagino la maggioranza sarà per il sistema collettivista, però io capisco chi ha un'anima radicale, liberale, individualista e ci prova. Bella responsabilità però, perché è se una poi, bella responsabilità. Prima di tutto diciamo che sono circa un migliaio pare le famiglie in Italia che adesso fanno questa pratica, che è un po' più diffusa, molto più diffusa negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, nei mondi insomma in cui l'anarco individualismo, la radice liberale individualista è più forte che da noi. Ma secondo te, poi ne parleremo con la fondatrice del network educazioneparentale.org, è una questione di sfiducia nelle istituzioni, nei libri di testo, no, non, nella scuola, o è proprio una scelta così diversa? Cioè... Nel modello americano e anglosassone nasce perché c'è una storia di tradizioni innanzitutto di confessioni religiose, quacri, presbiteriane, sì, e così via, che qui non c'è. Ecco, prima ancora che ci fossero le scuole pubbliche, che ricordiamolo poi nascono dopo la rivoluzione francese e nell'Ottocento, anche in Italia nell'Ottocento, però era molto più radicata questa tradizione, e la tradizione era di scuole non solo di comunità ma nelle famiglie, perché c'era una tradizione da famiglia a famiglia che cambiava molto, ricordiamoci la lotta le guerre di religione in Europa. Quindi questo spiega l'anima, diciamo, le scelte di quel mondo lì. Da noi questa cosa è molto meno forte, per così dire. Effettivamente nel mondo anglosassone spesso questa scelta si intreccia con un credo molto scettico nei confronti dello Stato. Ne parleremo tra poco con Erika Di Martino. Ovviamente presuppone, già ci diranno in molti, ma io devo andare a lavorare, non posso educare figli. È chiaro che presuppone una situazione, certo, familiare in cui è una bella sfida. O la mamma o il papà possono stare a casa, educare i figli, perché non è che vuol dire non mandarli a scuola e non istruirli, no, vuol dire farli studiare a casa, su libri anche di testo scolastici, certo, magari fargli fare più esperienza invece che compiti in classe, che ne so, geologia, andate sull'Etna a studiare, a vedere la geologia. Questo ha fatto Erika Di Martino e ce lo spiegherà. Perché poi si tratta di fargli passare gli esami come a tutti. Esatto. Se poi vogliono rientrare nel circuito della scuola devono fare un esame da privatista per rientrare nel circuito scolastico. Però insomma ci sono almeno un migliaio di famiglie che scelgono questa strada, l'homeschooling. Per me è affascinante. Però ecco, tu dici affascinante, vogliamo partire da che cosa? Forse era affascinato anche il nostro primo ospite da una allettante proposta che quando viveva a Londra l'ha riportato nella sua Palermo. A proposito di Stato? Perché l'allettante proposta era social innovation, e cioè fondi europei e fondi italiani per finanziare delle start-up giovani di persone che volevano lanciare delle idee in Italia. Alessandro Brancati, che è con noi, è un ingegnere di Palermo. Buongiorno Brancati. Buongiorno a voi. Allora, lei era a Londra, no? Quando, esattamente. Quando risale questa sua? Cioè, ha studiato a Londra? Sì, praticamente a Londra ho fatto il dottorato di ricerca, poi ho fatto un postdoc, c'è un assegno di ricerca, dopodiché diciamo stiamo parlando del lontano 2011-2012, dopodiché io sono tornato in Italia perché avevo voglia di utilizzare le mie competenze per il Sud Italia, e si è presentato questo bellissimo bando che metteva a disposizione massimo di 2 milioni di euro per giovani under 30, per giovani ricercatori under 30. Perché diciamo Brancati aveva 29 anni all'epoca. Sì, no, in realtà avevo 30 anni proprio esatti, quindi anni, proprio rientrava perfettamente. Perfettamente. Ovviamente pensa che perfetta coincidenza, no? Quando uno dice, quando si allineano gli astri favorevoli, finalmente dice posso tornare nella mia Palermo, fare un progetto per la mia Palermo. Ci rientro con l'età, tutto fenomenale. L'Italia che stanzia dei soldi per un bando di innovazione per giovani ricercatori. Mai visto! Esattamente. E che cosa aveva immaginato per Palermo? Ma io ho immaginato una piattaforma di carpooling, ovvero sia sarebbe una specie di autostop 2.0 che metteva in condivisione passeggeri con utenti, ovvero sia qua a Palermo abbiamo uno dei più grossi problemi, appunto il traffico, e quindi quello che le nostre idee è quello di mettere, come diceva Johnny Stecchino, esattamente era di mettere appunto più persone nella stessa auto. A Palermo ci sono varie zone in cui magari ci sono, anzi sicuramente ci sono delle persone che vivono e lavorano nelle stesse aree. Sì, diciamo il carpooling tanto. È un qualcosa che nelle grandi città c'è, insomma. Esatto, un carpooling, esattamente, un carpooling cittadino. Cioè, la condivisione dell'auto per risolvere uno dei più grandi problemi, come da citazione, il traffico. E che è successo, Branchetti? E quindi praticamente il bando scadeva ad aprile 2015 e già a fine maggio 2015, quindi dopo un mese praticamente la presentazione dei progetti, sono stato dichiarato vincitore del finanziamento. Quindi diciamo le cose in Italia stanno funzionando forse per la prima volta in maniera esemplare. Il progetto è in un certo senso iniziato. Ci hanno fatto subito firmare un disciplinare di concessione del finanziamento, ovvero sia un contratto vero e proprio col ministero. Dopodiché abbiamo chiesto: ma quando è che arriva materialmente i soldi? Perché dobbiamo iniziare l'attività. Ci hanno fatto aspettare ben 7 mesi. Noi in questi 7 mesi in realtà abbiamo cominciato le attività, abbiamo preso un mutuo per cominciare a spendere i primi soldi, quindi cominciare ad assumere il primo personale. E appunto, però, dopo 7 mesi ci chiamano tutti quanti a Roma e ci dicono fondamentalmente che il disciplinare, il contratto che avevamo firmato col ministero, non era più valido perché dovevamo firmare uno nuovo in cui fondamentalmente la proprietà intellettuale del progetto, quindi dei risultati stessi, passava da noi alla fine del progetto, da noi a loro. In pratica, il ministero si poneva come soggetto beneficiario del finanziamento e noi come soggetti attuatori, cioè come se il ministero avesse avuto le nostre idee e avesse assunto noi per svolgere le nostre Marameo, idee. Si chiama Marameo, lo Stato Marameo. Diciamo che per questioni burocratiche anche un po' complicate, forse si è messa di mezzo anche l'Europa che ha rischiato di vedere tutto questo come un aiuto di Stato improprio. Diciamo che per estrema sintesi questi finanziamenti non sono mai arrivati. Esattamente. Quindi, i finanziamenti sono arrivati. Sono arrivati. I finanziamenti al sono ministero. Arrivati. Praticamente hanno spacchettato, diciamo, tutto il finanziamento in 16-18 stati di avanzamento dei lavori, in cui praticamente noi non facevamo altro che spendere i soldi, quindi pagare i collaboratori, i fornitori, eccetera, eccetera. Poi presentavamo il conto al ministero, che verificava la congruità della spesa e poi rimborsava quello che noi avevamo speso. Però fondamentalmente veniva a crearsi una specie di circolo malato, perché ogni 2 mesi noi spendevamo i soldi e poi recuperavamo il finanziamento per poi reinvestirlo nuovamente. Sì, non eravate i destinatari di questi fondi, ecco, direttamente, quindi... Sì, praticamente era ogni 2 mesi dovevamo prendere il rimborso e rispenderlo e quindi reinvestirlo nuovamente nel progetto. L'unica cosa, diciamo, dove si è bloccato? Si è bloccato più o meno al 14° stato d'avanzamento dei lavori per noi come progetto, perché c'è stato il cambio del dirigente. Il nuovo dirigente si è reso conto, o quantomeno a seconda del suo pensiero, gli ha considerato tutta la procedura illegale. Quindi praticamente hanno bloccato tutti i fondi da circa luglio settembre, diciamo, 2015, quindi adesso è più di un anno e mezzo praticamente. No, ma tanto che lei Brancati racconta questa storia, ma come lei ci sono tante altre persone che avevano vinto questo bando. In totale sono 52 progetti, in ogni progetto facciamo una media che hanno lavorato 4-5, nel mio progetto hanno lavorato per esempio 50 persone, quindi stiamo parlando dai 300 ai 600 ricercatori, lavoratori, consulenti, eccetera, che hanno, diciamo, gravitato su questo. No, ma che credevano in questa cosa? Molti adesso si ritrovano indebitati, molti si ritrovano senza finanziamenti, i progetti faccio, poi dicono che io sono scettico, che io urlo, protesto, sì, signori deputati. Ma detto questo, rendiamoci conto, il ricercatore che ha creduto alla buona fede dello Stato si trova, una volta vinto il bando, si trova a vedere capovolta il proprio ruolo giuridico nella faccenda, perché dal vincitore, che in teoria a quel punto dovrebbe, ha riconosciuto i soldi, decidere lui, visto che l'idea è sua, la responsabilità organizzativa è sua, eccetera eccetera, ha ricevuto i soldi, allocarli. Lui diventa invece il soggetto intermedio di un rapporto in cui lo Stato i soldi li dà a se stesso tramite il ricercatore, che diventa l'anticipatore di cassa dello Stato. Cioè, capisci che è un paradosso bestiale. Ma sì, voglio dire, io mi metto nei panni di gente che è tornata da fuori credendoci, e alla fine sono uno Stato che dice: no, scusa, sì, e poi alla i soldi sono per me, vengono pure bloccati, tu li anticipi, alla fine. Quindi se mi va, visto che sei tu che credevi a me, non io a te, rimani tu esposto col sedere scoperto. Ma c'è delle cose che... No, e poi alla fine cambia il dirigente, no, e in base al nuovo dirigente si blocca tutto. Beh, ma insomma, Brancati, se se ne stava a Londra forse era meglio. Detto, ma capisco sì che... e no, sì, no, e sì no, e nel no, senso che sicuramente questa esperienza mi ha formato. Sicuramente molte persone mi dicono: guarda, sarebbe stato meglio stare a Londra. In un certo senso è la verità, però, come dire, l'impegno di un ricercatore nella propria terra è un impegno che ha un sapore totalmente differente. No, certo. La soddisfazione che si ha quando si raggiungono dei bei risultati è sicuramente molto più alta rispetto a magari un paese che comunque non ti appartiene, in cui io lavoravo appunto a Londra, in cui tutto funziona assolutamente alla perfezione, in cui tu dai un contributo anche minimo, ma come dire, è un contributo piccolino in un mondo che è quasi perfetto. Qua a Palermo e in Sicilia, al sud Italia, sì, c'era l'idea di vincere una sfida, di voler dare un qualcosa per la sua terra che sarebbe, non sarebbe passata inosservata, no? Non sarebbe stata la goccia nell'oceano, ecco. Ma in realtà, esattamente, in realtà non è passata per nulla inosservata. Noi abbiamo avuto 6, 7.000, 8.000 iscritti, abbiamo parlato con 10, 12.000 persone a Palermo, quindi diciamo stiamo parlando di grossi numeri, e stiamo parlando del 2012, in cui Uber non esisteva, BlaBlaCar conoscevano forse uno, massimo 2% della popolazione, e quindi stiamo parlando proprio di un momento totalmente storico, completamente come dire, un qualcosa innovativo, comunque che l'ha formata. Brancati, che dobbiamo dire? Qui noi dobbiamo andare in pubblicità e la ringraziamo, e dire che voleva risolvere uno dei problemi più atroci di Palermo. No, niente, non si può fare. Il traffico. Un tempo erano le banane, i problemi, adesso diciamo i problemi. Però devo ammettere, io ne invidio molto il buon umore, devo dire, perché esatto, lo spirito con cui si sopravvive anche alle sgangheratezze pubbliche italiane. Detto questo, io reagirei diversamente, cioè io direi che lo Stato va inabissato, ha mandato a fondo, che devono annegare sul ponte quelli che lo difendono. Questa è un po' la mia idea, ecco. Però io capisco che l'ironia serve. Però Oscar meglio si sveglia già così, quindi sì, non c'è bisogno di una storia come quella di Brancati. Però come vedi, le conferme arrivano. No, ma noi lo stiamo facendo, noi più che altro stiamo agendo con degli avvocati, quindi diciamo sono anche più sereno per questo motivo. Certo. Quindi, però ovviamente diciamo la situazione sicuramente non mi tranquillizza. Adesso dopo un anno e mezzo, un anno e passa, quindi sono molto più tranquillo e molto più rilassato. Ma diciamo, comunque esiste un fuoco abbastanza forte. Ecco. Allora, noi ringraziamo Alessandro Brancati, ingegnere di Palermo, ideatore di questo progetto di startup City Free, questa sorta di carpooling a Palermo. Allora, grazie, la campanella è suonata alle 8.30, in genere 8.30 sì, è l'orario più o di, meno, no? Sì. A meno nella scuola dei miei figli alle 8.30, poi non lo so. Però ci sono una serie di famiglie in Italia che tra l'altro a settembre fanno la festa del non ritorno a scuola, perché fanno l'educazione parentale, cioè tengono i bambini a casa e li istruiscono a spese proprie, con un'educazione propria, decisa, studiata, però slegata dai percorsi formativi della scuola pubblica o paritaria. Che ne pensate? È una cosa... Oscar ha già dichiarato il suo amore per questa scelta. No, culturalmente sì, naturalmente non potrei mai, perché a casa che ci resta dobbiamo lavorare in famiglia, ma però... Sì, no, la capisco, è una scelta di libertà. No, vabbè, questo figurati se lo dici per ironia, pensando che io dica che non è vero, lo sai. No, perché tu l'hai messa sul lavoro. In realtà la vera cosa è: Margherita è d'accordo oppure no? Perché qui sta il punto. Non c'è dubbio. Ma Margherita, posso dirti, se potesse Io sono convinto che lo farebbe. Sì, per come la vedo. Certo che è anche un bel impegno, È anche un bel impegno, questo non si tira mai indietro, Margherita. Ma sai com'è? Perché io stavo dicendo, innanzitutto ci vuole un ottimo rapporto tra padre, madre, figli, tra l'educatore familiare e i figli. Mm-hmm. Ecco, nel nostro caso, cioè, grazie al cielo, speriamo che non cada nulla nella vita, ma è fortissimo. Però senza di quello capisci che non funziona per definizione, con famiglie conflittuali ed esplose, gli dici ai bimbi, i bimbi preferiscono andare a scuola per evadere. Al mattino devono studiare, insomma, come dire, se non vanno a scuola. E oltretutto ci vuole anche un meccanismo in cui funzioni anche quello che dici ai figli, cioè devono farlo, a quel punto bisogna sedersi e condividere, ma farlo sul serio, perché sennò poi gli esami non si passano. Questo non è un sistema fatto per risparmiare fatica, è semplicemente per fatto nella convinzione di poter usare un metodo e un'attenzione, naturalmente non nelle classi numerose, che è più elevato e con migliori risultati. Ne parliamo tra poco con Erika Di Martino, fondatrice del network educazioneparentale.org. State con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui alle 8:42 minuti. Allora, vogliamo parlare di questo homeschooling, se volete dirlo in inglese, o educazione parentale. Educazione. Siamo. Ma sai perché l'ho detto? Perché la nostra ospite, Erika Di Martino, è italo-americana, così mi risulta. Buongiorno, buongiorno Di Martino. Buongiorno. Magari mi ha dato già 5 per la pronuncia in inglese. Tanto good morning. Ah, va bene. Tanto non avete le pagelle, quindi non è che mi ha dato 5 per la mia pronuncia di homeschooling. Allora, Erika Di Martino, fondatrice del network educazioneparentale.org. Le dico già, anzi, le faccio sentire due ascoltatori. Perché ma non sarà stupita, Erika. No, vedrai. Ma la critica numero uno è questa, ecco, dell'educazione parentale. Stupita. Manca la socialità dei bambini. Senta qui, almeno mi dicono che la critica maggiore dagli ascoltatori. Gabriella ci chiama da Torino. Buongiorno, Gabriella. Buongiorno. Posso fare un saluto particolare a Oscar Giannino, con cui siamo stati compagni di liceo, visto che si parla di scuola. No, sì, Gabriella. Siamo stati compagni di liceo. Ah, beh, sono passati 40. Vabbè, non diciamo così, non mi fare emozionare. Non si ama da profondi. Comunque un saluto particolare. Ma come andava sto testa di piffero di Giannino al liceo? Dunque, io sono un po' più grande. Lo so, Gabriella. E non eravamo nella stessa. Lo so. Penso fosse un secchione pazzesco. Ecco, no, vabbè, però. No, ma perché è stupido sto Giannino? Si capiva da giovane che era così. Vabbè, Gabriella, io non mi pronuncio, posso solo dire che sono una di quelle sul ponte dove sta arrivandomi l'acqua alla gola. E quindi ho apprezzato moltissimo la metafora, l'augurio che mi porterò a casa per tutta la giornata. Ho capito. Dei saluti. Sulla scuola, ma io ho due figli, mi sono occupata molto di scuola, ho fatto parte di tutti gli organi collegiali. Credo che il sistema scolastico italiano, ancorché in stato di avanzata forse decomposizione, cioè sicuramente abbandonato da qualsiasi idea di riforma e di avvicinamento delle modalità di studio come si possono svolgere all'estero, sia ancora una cosa sostanzialmente molto più forte di un'educazione a casa, di cui però poi ascolterò molto volentieri la promotrice. Ma per motivi di socialità? Per motivi di socialità, nel senso che io ho comunque questo ricordo bellissimo sia di comunità di genitori in cui ho conosciuto persone magari molto diverse da me, che francamente a Torino ci sono molti romantici, parlo di questo clima, non è facilissimo. No, non proprio. Esatto, ed è stato un grande arricchimento per me e per i miei figli, e poi tutto sommato una formazione che li ha portati adesso a frequentare uno dei più blasonati atenei d'Italia. Vabbè, Gabriella, insomma, diciamo però la critica numero uno, ma guardate, di tanti ascoltatori, no, così diamo la parola a Erika Di Martino, è proprio questa, la mancanza di socialità, che poi si può tradurre così, Di Martino: perché tenere a casa i bambini, voi ne avete credo 5? Sì, ne abbiamo 5. E non mandarli a scuola con altri compagni, perché? Ma secondo me il problema innanzitutto sta nell'immaginario delle persone che si vedono la mamma maestra, il papà maestro in cucina, in questo scenario di solitudine che mi rattrista anche solo al pensiero. Quindi non è così innanzitutto. In secondo luogo io immagino sempre la scuola comunque in un certo modo, sì, è un momento dove i bambini stanno in compagnia, ma non è l'unico momento che può esserci di socializzazione. Esatto. E in più, se io fossi un adulto che vuole mettersi in compagnia, fare amicizie, sicuramente non sceglierei il contesto della scuola, dove comunque per lo più i bambini sono della stessa età, fanno più o meno le stesse cose, stessi libri, stessa interazione con gli adulti. Immaginatevi invece un bambino in società, quindi un bambino che vive tutte le sfaccettature come un adulto, quindi si relaziona con persone di tutte le età, di mestieri diversi, di ceti diversi, viaggiando anche eventualmente, perché molte famiglie homeschooler riescono anche a viaggiare, parte dell'apprendimento è anche proprio il viaggio in tanti casi. Ecco, e quindi immaginatevi questa contrapposizione rispetto alla classe, che comunque rimane un ambiente abbastanza statico e ripetitivo. Sì, poi lei dice la socialità c'è, che ne so, nel pomeriggio, iscrivendo i bambini a una polisportiva, mandandoli in comunità. E non solo, perché lei si immagini che gli homeschooler sono in rete. Come diceva prima, c'è il network e ci sono, per dire, nella nostra zona una trentina di famiglie, ci vediamo su base settimanale, due o tre volte. Quindi non solo abbiamo gli amici scolarizzati, abbiamo gli amici homeschoolers e gli amici delle attività sportive, ricreative e pomeridiane. Quindi è una sorta di scuola, un'interclasse, diciamo così, degli homeschooler, anche se il termine... No, perché poi serve a scambiarsi, ad affinare le esperienze, a migliorare le procedure, i test, i risultati. Cioè, non è la scelta di vivere su una delle lune di Giove. Ecco, non so come dire, è il contrario. Statisticamente un po' così al momento lo è, nel senso, quanti siete che fanno questa scelta? Sicuramente controcorrente, almeno nei numeri. Sì, decisamente controcorrente. In Italia siamo ancora pochini, siamo un migliaio di famiglie, poco più, diciamo, però c'è una crescita costante, perché comunque c'è molta curiosità su questa personalizzazione del percorso. Il di motivo? Studi. Cioè, perché Oscar diceva, nell'ambiente anglosassone, lei lo conosce, anche legato magari a questioni religiose. Sì, eccetera. Storiche, voglio dire, le scuole di comunità e i familiari lì sono radicate in una tradizione che da noi non c'è. Da noi la rivoluzione è la legge Siccardi, la scuola pubblica, no? Che è nell'Ottocento, mentre in quell'altro mondo no. Ecco. Io apprezzo moltissimo l'homeschooling come sta evolvendo qua in Italia, perché è veramente vario e vasto. Perché mentre negli Stati Uniti, come dicevate voi, c'è comunque uno zoccolo duro che fa questa scelta per motivazioni religiose, le motivazioni secolari, comunque in Italia vedi veramente che ci sono famiglie di tutti i tipi. Quando facciamo il meeting nazionale, esatto, che è a giugno, abbiamo dai genitori veramente che arrivano, quelli super ecosostenibili, no? Così fino a toccare magari i professionisti, viaggiatori, persone. No, è splendido come in Italia ci sia questa diversificazione. Sì. Non è un'altra critica che arriva, guardi, io le leggo i messaggi, no? Che però le faccio domande mie, sono molto intelligente. C'è una sorta abituata. Chiaro, di grande autoreferenzialità, cioè di considerarsi come dire, in grado, magari in rete, di poter anche insegnare ai propri figli, no? Non c'è una sensazione di sentirsi un po' dei superio, ecco, ma in realtà da un certo punto di vista io trovo che la società stia un po' destabilizzando i genitori, perché i genitori non si sentono più in grado di poter adempiere al loro ruolo, con i risultati che vediamo, comunque, no, grande delega da parte della mamma e del papà, e questo non, a mio avviso, non crea dei risultati positivi, e possiamo riscontrarlo facilmente leggendo i giornali. È importante che i genitori abbiano una rete di supporto, questo è fondamentale. Quindi anche qui, di nuovo, nell'immaginario si tende a pensare il genitore e il bambino, mentre quello che vorrei far passare, far capire, è che c'è una comunità. Io sto cercando, anche con il mio lavoro, di far riscoprire l'importanza della comunità. Se c'è, per dire, un bambino che deve imparare qualcosa, il genitore gli illustra tante possibilità. Una può essere la biblioteca comunale, che va, lo sapete benissimo, purtroppo sono un po' disertate ultimamente, che va rivissuta. Può essere il vicinato, magari qualche anziano del paese, del vicino, può raccontare qualche storia della storia del passato molto meglio di un libro di scuola. Quello che mi piace proprio è l'idea di cerchio, no? L'idea di gruppo che sostiene l'apprendimento del bambino rispetto alla scuola, dove comunque è spesso l'insegnante e la classe che si confrontano tra di loro. Sì. Ma qua ci chiedono ancora quanti figli hai. Vediamo, avete cinque figli. Ovviamente... Sì, abbiamo cinque figli, ci è capitato così. No, lo chiedono l'ascoltatore. Ovviamente, cioè, cos'è? Bisogna avere un lavoro che permette di stare anche molto a casa, non lo so, ci spieghi? Cioè, la giornata come va? Voglio dire, al mattino ci sono degli orari, non c'è la campanella, ma ci saranno degli orari di studio precisi oppure no? È tutto... Allora, sì, io ci tengo anche a precisare che non è una scelta che va fatta alla leggera, anzi, no, invito tutti i genitori incuriositi ad approfondire molto attentamente diritti e doveri e tutto quello che è il mondo dell'homeschooling prima di lanciarsi in questa cosa. Poi, per tornare agli orari, dipende dalle famiglie. Ci sono famiglie che magari sì, seguono degli orari, degli schemi precisi. Noi, in realtà, no, perché abbiamo un modo di apprendere molto naturale, e adesso ve lo spiego in poche parole, anche sì, se ci vorrebbe di più, nel senso che non seguiamo un programma, non seguiamo il programma ministeriale, seguiamo quelli che sono gli interessi e le passioni dei bambini al momento, e vi assicuro che ce n'è per riempire 5-6 programmi. Quindi la nostra priorità è che i bambini comunque riescano ad apprendere in maniera curiosa, interessata, quindi non stiamo riempiendo, come dire, un recipiente, non stiamo dando a loro informazioni preconfezionate, ma li stiamo sostenendo in quella che è una loro ricerca. A mio parere, comunque, rispetto ai miei cinque figli, il più grande adesso ha 12 anni e abbiamo sempre fatto homeschooling, posso assicurare che nel nostro caso sta dando dei risultati ottimi, perché sono bambini che riescono a studiare in maniera molto autonoma, perché comunque hanno capito come si reperiscono le informazioni, sì, hanno capito dove possono andare a ricercare, e quindi scrivono un po' il loro cammino autonomamente, invece di essere in un apprendimento passivo. Qua, Oscar, le domande sono tantissime. C'è chi ci chiede: ma è legale? Certo che è legale. La Costituzione prevede il dovere di istruire i figli. È legale, è riflesso condizionato, no? Di come lo Stato ha rapinato la mente agli italiani. No, però certo, però per lo Stato, se volessero entrare nel circuito, devono fare un esame da privatisti. Non è che possono... Certo, facciamo esami da privatisti per poi accedere all'università eventualmente. Ma ripeto, la domanda è legale? Dall'idea di come oramai sia del tutto ablato, eradicato, evaporato dalla testa della gente. Che mandarli alla scuola dell'obbligo è un dovere. Sì, capur che se magari tu come padre o madre vorresti esercitare un'influenza e avere delle idee strutturate su cosa offre invece l'offerta pubblica, sei al limite della delinquenza se non oltre. Guarda che questo dice tutto di come vi hanno martellato il cervello, cari ascoltatori. E ohimè, ci sono riusciti. È verissimo, c'è un po' questa idea alla Pinocchio che arriva il gendarme e ti porta via i bambini. Ma è una... Noi quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo trovato tantissime informazioni. Ci siamo subito riferiti a dei legali proprio perché volevamo avere le idee chiare, certo, cosa chiaro, che purtroppo non è mai non esatto, vediamo succedere, perché le altre persone vivono un po' per sentito dire e delegano abbastanza ciecamente allo Stato esatto, quella che è l'educazione dei propri figli. Sentiamo Miriam che ci chiama da Bari, buongiorno. Miriam. Buongiorno, ascoltavo il religioso silenzio, sì, l'esperienza della radioascoltatrice. Ho molti dubbi su questa idea, perché l'arricchimento avviene attraverso il confronto, sia con una classe allargata, sia con i docenti. Ho imparato la filosofia avendo a che fare con una docente bravissima che mi ha insegnato il metodo per mettere in discussione tutto quanto. Però ci ha spiegato Miriam Erika Di Martino che il confronto c'è tra gli altri che fanno l'educazione parentale, quindi non è che sono delle isole che stanno lì e non rivolgo la parola a nessuno. Per me il confronto deve essere quotidiano con 20 alunni a partire dalla prima elementare. Okay. Alunni che provengono da famiglie disparate, che abitano in quartieri differenti, che hanno quindi esperienze differenti. Il mio dubbio sa qual è? Sì. Vengo da una città del sud, conosco tantissime famiglie che nei 40 anni fa, 50 anni fa si consideravano nobili e ricche. Educavano i figli in casa, offrendo sì, ai figli i precettori più bravi. Ah, ecco. Quindi sceglievano di solito erano dei cherici, sì, erano quindi dei... Dobbiamo concludere, Miriam, perché siamo quasi in sigla. E quindi queste persone sono, oggi come oggi, sono dei disadattati. gli è mancato sempre il confronto con i compagni. Addirittura. Lei dice disadattati, perché sono stati educati in maniera separata. Però a me è talmente incuriosito quello che ha detto Erika Di Martino, segnalo appunto educazioneparentale.org, così vi informate. Magari la reinvitiamo se vuole. Secondo me perché sarebbe utile, per far riflettere un po' meglio gli ascoltatori che hanno questo riflesso condizionato, no? Tipo, ascoltate, cioè, i figli dei ricchi e quindi disadattati. Va bene, dai. Molto interessante, dai, la reinvitiamo prossimamente, se ce lo concede. Alla prossima puntata, ciao a tutti!